Radio 24. Libera la voglia di fare. Conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari radioascoltatori, anche in questa vigilia di Capodanno, sabato 31 dicembre, i compari dei Conti della Belva hanno deciso di tenervi compagnia con, come abbiamo già fatto la vigilia di Natale, con una scelta di temi che troviamo come eredità per l'anno prossimo e sono un'ora di trasmissione, ma intanto iniziamo con la corruzione e che cosa può davvero riservarci l'ANAC di Raffaele Cantone. Ma è una foglia di fico, come sembrerebbe purtroppo, vista la gravità e il ripetersi dei fatti a Roma, a Milano, eccetera, eccetera, oppure può fare, dopo il suo esordio in questi anni, molto meglio ancora e dare una risposta strutturale all'endemicità trasversale della corruzione nel nostro paese? Sapete la mia tesi, la risposta migliore non viene tanto cambiando le persone. Quando un fenomeno è così esteso, bisogna far dimagrire lo Stato, ma questo lo penso io. È uscito un libro che io vi incoraggio a leggere di cuore. L'editore è Chiare Lettere, il titolo è normale, lo fanno tutti. Storia dal vivo di affaristi corrotti e corruttori. Ed è un libro il cui autore, diciamo, scrive sapendo di che scrive, non perché sia un corruttore o un corrotto, ma perché è commissario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Michele Corradino, è commissario dal 2014. La particolarità di questo libro è che, oltre ad avere una prefazione di Raffaele Cantone e oltre ad avere poi capitoli conclusivo abbastanza ampio sugli strumenti da affinare e quelli esistenti contro la corruzione in Italia, quindi c'è una prima riflessione su quello che è stato messo in campo creando questa, che alcuni considerano una foglia di fica, altri considerano un impedimento aggiuntivo della pubblica amministrazione, e che invece però è uno strumento di intervento in tempo reale in quello che la Corte dei Conti non riusciva a fare sugli appalti, la trasparenza e così via, cioè l'autorità anticorruzione. Oltre a questo però, il libro nella sua parte centrale è godibilissimo perché è fatto mettendo insieme pezzi di soprattutto di trascrizioni di conversazioni telefoniche usate nelle indagini sui corrotti, che poi sono diventati procedimenti penali a loro carico, e lo spaccato che offrono di imprenditori, pubblici amministratori, funzionari, dirigenti di qualunque ordine e grado della PA, parenti, amici, amanti, mogli, fratelli, sorelle coinvolte, nessuno, cioè è l'ordinaria amministrazione di un pezzo fondamentale di vita italiana. Non stiamo parlando di grandi criminali, stiamo parlando di un'attitudine mentale e culturale che continua a essere diffusissima. Certo, ha cambiato le caratteristiche, non ci sono più le grandi partecipazioni pubbliche cui i partiti prendevano parte fondamentale del proprio finanziamento come nella Prima Repubblica, però è una cosa diffusiva, estesissima, nord, sud, est, ovest. E c'è l'ultimo capitolo che dice, poi lascio la parola al nostro ospite: l'Italia è il paese più corrotto d'Europa, come molti pensano. Non è così, e c'è la spiegazione, però restiamo troppo dannatamente corrotti rispetto a quello che dovremmo. Allora, Michele Corradino, grazie di aver scritto questo libro, come ha capito mi è piaciuto, ma in realtà chi vi dice che siete una foglia di fico e che rompete le scatole, che non esiste in un altro paese che ci sia una super autorità oltre alla magistratura amministrativa, contabile, penale e civile, dovevamo inventarci anche questo, qual è la risposta vera che date? Grazie, buongiorno, buongiorno a lei, anche grazie alle belle parole, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma guardi, l'Autorità Nazionale Anticorruzione in realtà nasce perché una convenzione internazionale la richiede, chiede che ci sia in tutti i paesi che hanno aderito alla convenzione, e quindi in realtà in tantissimi paesi occidentali esiste un'autorità di questo genere, ed è un'autorità che nasce per garantire la trasparenza e per lavorare sugli appalti. Ecco, non è un'autorità che guarda soltanto alla forma, ma io credo che sia un'autorità, soprattutto nello spirito in cui viene intesa in questo momento, un'autorità che guarda lo sviluppo e che cerca di premiare innovazione e sviluppo garantendo però la legalità. Io credo che questo sia il vero spirito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Io non so se posso dire una cosa con riferimento al dibattito che ho ascoltato poc'anzi con grandissimo interesse. Mi ha colpito molto questo dato che avete dato sulla distribuzione della ricchezza tra giovani e più anziani. Ecco, a me sembra però che questo dato sia un dato influenzato anche dal tema della corruzione. Ah. Io credo che ci sia una correlazione diretta tra il grado di corruzione nel paese e la difficoltà dei giovani di emergere, perché la corruzione ruba il futuro. E mi sembra che ci siano dei dati scientifici che sono particolarmente interessanti. Degli studiosi, tra l'altro uno studioso italiano insieme a uno studioso americano, hanno pubblicato uno studio molto bello su Nature, quindi diciamo una rivista che naturalmente è considerata la numero uno nel mondo scientifico, che ha messo in correlazione diretta, ha dimostrato come ci sia una correlazione diretta tra il grado di percezione della corruzione, questo indice di percezione della corruzione che serve per valutare i diversi paesi del mondo, e due dati che mi sembrano molto interessanti. Uno, la fuga dei cervelli, cioè lo sbilancio tra i laureati che entrano e che escono da un paese e gli investimenti in ricerca. Ecco, si è dimostrato che più è alto il grado di l'indice di percezione della corruzione, in Italia è molto alto, è tra i più alti d'Europa, lo ricordava poco un attimo fa anche lei, e il basso livello di investimenti in ricerca e l'alto numero di laureati che escono. Quindi io credo che la corruzione, proprio perché uccide il merito, non dà ai giovani meritevoli la possibilità di emergere e di raggiungere i più elevati livelli della società, quindi impedisce l'ascensore sociale, costituisca uno dei fattori probabilmente che porta a questo risultato inaccettabile di questa distribuzione della ricchezza che va tutto verso le persone più anziane. Guardi, Corradino, io le dico una cosa, magari mi sbaglio io, sicuramente è così, sono zero titolo, lo sanno tutti. Stiamo parlando di Milano, quindi non stiamo parlando delle Ndrine calabresi, no, stiamo parlando di Milano. Stiamo parlando del fatto che Ferrovie Nord, quindi stiamo parlando di una partecipata pubblica importante. Ferrovie Nord, più volte interessata da indagini delle procure, un funzionario di Ferrovie Nord è stato... ha svolto un ruolo importante perché ha fatto, diciamo, la sentinella civile, quello che si chiama whistleblower in inglese, e poi ha, grazie alla ricostruzione, ai dati e alle testimonianze che ha reso nelle indagini che erano in corso, ha ricostruito alcune delle cose, diciamo, più discutibili che facevano dirigenti di prima fila di Ferrovie Nord. Bene, questo dipendente non lavorerà più in Ferrovie Nord. Naturalmente è stato licenziato con un provvedimento formale che avrebbe esposto a, come ovvio, a impugnative da parte del soggetto, è stata la società. No, hanno fatto in modo però che la sua vita diventasse impossibile. Sto parlando di Milano. Sarebbe egualmente grave dovunque fosse avvenuto, però questo è quello che, quando io vedo, io lo confronto con, lavoro da decenni in un numero molto elevato di aziende diverse oramai, perché sono un freelance, quindi cambio spesso, vengo messo alla porta, in tutti i posti ho visto mentalità di questo tipo, tutti senza eccezione. Questa è una cultura diffusissima nel nostro paese. Allora, la domanda che faccio a lei: come si fa a cambiare questa cultura, al di là del fatto che voi intervenite sulle gare, ma... Però io a volte mi chiedo se non sia come voler svuotare l'oceano con un cucchiaino. Ma sicuramente il percorso è un percorso molto lungo. Lei ha toccato un tema caldo, importantissimo, peraltro in questo momento all'attenzione anche del Parlamento per una riforma, cioè questo tema del whistleblower e della tutela che dobbiamo dare. Ecco, tutte le organizzazioni internazionali, le convenzioni a cui il nostro paese ha aderito, hanno chiesto di favorire il controllo sociale di, cioè hanno chiesto di favorire strumenti che consentano alla gente, ai cittadini, ai giornalisti, soprattutto ai giornalisti d'inchiesta, di poter guardare dentro la pubblica amministrazione e denunciare quello che non va. Ecco, questo controllo sociale avviene attraverso diversi strumenti. Uno è questo del whistleblower, il quale in Italia, devo dire, ha una regolamentazione non soddisfacente, nel senso che è una regolamentazione che attualmente tutela soltanto il dipendente pubblico e lo tutela tramite l'ANAC, però purtroppo questa disciplina è una disciplina che vale solo per i dipendenti pubblici. Esatto. E quindi adesso c'è all'attenzione del Parlamento. È la cosa incredibile. Dovrebbe valere innanzitutto per i privati, in prima fila per i quotati, visto che ci sono diritti dei soci di minoranza da tutelare e così via. Però dovrebbe diventare una cosa fondamentale. E le faccio un ultimo appello da giornalista. Il Freedom of Information Act del governo, malgrado il fatto che sia stato riscritto, che ci siamo battuti dicendo che era una presa per i fondelli, come gli era stato scritto dall'alta dirigenza pubblica, per tutelare il fatto che rimanessero cortine di ferro, faccio un appello direttamente a lei come membro dell'autorità tante corruzioni, siccome sarà meno, diciamo, deludente a seconda delle linee guida che spetta a voi adesso emanare, io vi prego, vi preghiamo in ginocchio, lo faccio a nome dei colleghi che rompono le scatole, fatele in maniera opposta a come era scritto, perché leggere che si spacciasse come Freedom of Information Act un provvedimento che dava alla pubblica amministrazione italiana la facoltà di non rispondere se non ti rispondeva entro 30 giorni la tua richiesta era cestinata, era una presa per i fondelli, sembrava un film dell'orrore. Quindi, per favore, io la rinviterò per parlare di quello quando le emanerete, dovete fare una cosa che ci porti minimamente a livello di quello che negli Stati Uniti, grazie al fatto che esistevano dei giornalisti rompicazzo che hanno fatto cadere dei presidenti che non sono stati cacciati dai loro giornali, come è capitato a me, licenziato disciplinarmente perché parlavo male di una banca i cui capi adesso sono all'estero, capisce? Quindi io lo faccio proprio a titolo personale, dottor Corradino, perché sono un po' imbufalito per la storia della mia vita. Allora, detto questo, vi preghiamo, fate in modo che i cittadini, oltre che i giornalisti italiani, possano avere accesso a ciò a cui hanno diritto se sono cittadini, altrimenti sono dei sudditi di re a cui voglio tagliare la testa! Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'imposta. Conti della Belva. Ed eccoci qua in questo spirito precapodannesco, ponendoci un tema. Molti di voi oggi non faranno altro che spostarsi con automobili, mezzi privati, però nel nostro paese esiste un enorme problema, il trasporto pubblico locale, pendolare irrisolto, e nei prossimi 15 minuti ci poniamo un problema, ma bisogna prendere sul serio Ferrovie dello Stato, che dice che adesso ci pensa lei perché vuole estendere di nuovo la sua mano a tutto, diventare addirittura una grande piattaforma digitale per tutti i segmenti anche privati del trasporto nel nostro paese. Noi ne abbiamo parlato con Mazzoncini, l'amministratore delegato alla testa dell'azienda Ferrovie dello Stato e Trenitalia, esprimendo qualche dubbio. Lui ci ha risposto, devo dire, in maniera molto esplicita. Intanto però state attenti a trasferirvi il giorno di Capodanno e domani, se avete bevuto troppo stanotte, al di là di Ferrovie dello Stato o meno. Ed eccoci tornati in studio, cari ascoltatori di Conti della Belva, in questo sabato mattina, fresco fresco di nomina a Parigi dalla presidenza di una cosa che, quando io ho letto, ho detto: e ci siamo, finalmente, l'Italia che cresce nel gioco internazionale, perché dovete sapere che la sigla è l'Unione Internazionale di Chemin de Fer. Ho pensato subito ai casinò, al gioco, no, sono l'Unione Internazionale delle Ferrovie, a dire la verità, è una cosa più seria. Renato Mazzoncini che è con noi in studio, che è l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Buongiorno a tutti, eccomi qua. Io parto subito, io farò il cattivo, Carlo Alberto farà il buono. Allora, con lei, Ferrovie dello Stato, effettivamente in pochi mesi abbiamo appreso di un grande piano industriale, piano decennale, si parla di 91 miliardi di investimenti, oltre la metà già disponibili. L'idea, il raddoppio di un fatturato che da un po' meno di 9 arriva a 17 miliardi erotti, è un'idea che a quelli come me farà brividire. Io, quando ho visto che lei è bravo, mi è venuto un giramento di palle, perché preferirei uno non bravo, perché uno non bravo, se fa questo piano, non riesce a acchiappare il trasporto pubblico locale. Volete prendere di nuovo dall'ATAC a Ferrovie Nord, a Sud-Est in Puglia, eccetera eccetera. Volete prendervi sul gomma cose gestite da privati o da grandi gruppi concorrenti. Insomma, avete un'idea di fare un grande integratore, perché questa è la scelta del vostro piano, una grande piattaforma di integrazione delle differenti forme di trasporto, che è una cosa che non mi sfugge, molto positiva.

della belva. E poi, ancora, un tema su cui siamo interrogati a lungo, e voi sapete che hanno mandato a casa Stefania Giannini, l'ex ministra dell'istruzione, dicendo che la riforma è stata fatta male. Uno di quelle dei temi più importanti sventolati da un PD che era ben lungi dall'ammettere di averla fatta male era l'alternanza scuola-lavoro, cioè la crescita dei moduli orari negli istituti, nel ciclo secondario della scuola superiore, di alternanza scuola-lavoro. E la CGIL ha sollevato un dubbio: ma che alternanza scuola-lavoro? Qui vogliono mandare i giovani invece che a fare istruzione da McDonald's. Ecco, siamo partiti da questa provocazione per capire davvero se sia un bene o male più alternanza scuola-lavoro nel ciclo della formazione pubblica. Naturalmente noi pensiamo di sì, ma dobbiamo discutere con chi invece pensa di no. Eccoci qui, tornati in diretta ai Conti della Belva con Oscar Giannino e... Ah beh sì, sono sempre qua, sì, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, domanda, cari ascoltatori, perché le convenzioni di alternanza scuola-lavoro, punto di forza della riforma buona scuola, vanno bene se fatte con aziende come Zara, come la Coppa, vanno male se invece sono fatte come McDonald's? Abbiamo, per sostenere l'accusa, cioè spiegare perché non va bene con McDonald's, il segretario generale della Federazione Lavori e Conoscenza, Mimmo Pantaleo. Per la difesa, per così dire, il governo, con Davide Faraone, sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione. Terzo ospite, come parte in casa, visto che firmatario della convenzione, abbiamo anche con noi Stefano Dedola, che per McDonald's. Grazie di essere con buongiorno, noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, l'accusa, Pantaleo, perché non va bene? Ma perché non vanno bene tutte le convenzioni che prevedono un'alternanza scuola-lavoro che non sia coerente con il progetto formativo che si fa in una scuola? Cioè, se uno fa un liceo, un istituto tecnico, un istituto professionale e ha un piano di studi, l'alternanza deve essere in qualche maniera collegata, mettere insieme il sapere e il saper fare, diciamo. Che cosa c'entra in tutto questo McDonald's, ma anche altri, perché noi non abbiamo difeso alcuni e condannato altri. Noi condanniamo un modello di alternanza che non prevede appunto una forte interazione tra ciò che c'è fuori e ciò che c'è dentro la scuola, e l'alternanza per noi deve essere un modello didattico che deve completare la qualità del processo formativo degli studenti e non essere invece una forma di vero e proprio soltanto lavoro. A questo aggiungo anche un'altra questione. Vorrei ricordare che il Ministero stesso ha avviato una serie di progetti sperimentali nella scuola, tra cui quella dell'educazione all'alimentazione. Ecco, non mi pare che, diciamo, McDonald's risponda esattamente a quel modello, poi si può discutere di tutto. E infine vorrei anche ricordare che la scuola dovrebbe servire a formare delle persone che devono avere competenze, conoscenze e quindi anche lavori che siano collegati in qualche maniera a quello. Non mi pare proprio, anche dal punto di vista dei diritti nel lavoro, che McDonald's da questo punto di vista brilla. Quindi Pantaleo, sinteticamente ha posto tre grandi questioni. Primo, c'è una questione generale: alternanza scuola-lavoro fatta con aziende dell'offerta commerciale di alimentazione non mi pare che sia coerente. Secondo, c'è una questione che ha a che vedere con anche in particolare il contrasto tra questo e quello che è il fine della scuola su qualità dell'alimentazione. Quindi vede però Pantaleo che l'osservazione su McDonald's c'è, e questo spiega perché. E poi la terza è ancora di carattere più generale. Io darei la parola per capire la prima riflessione che ha indotto il Ministero a metterla nella lista invece delle convenzioni di questo tipo di aziende a Davide Faraone. Che rispondiamo alle obiezioni della CGIL? Ma intanto rispondiamo che noi, al contrario di quello che esprimono coloro che manifestano dubbi su questo tipo di convenzioni, noi ci fidiamo degli insegnanti e delle scuole, e quindi sappiamo che potranno costruire dei percorsi che siano dei percorsi virtuosi e positivi. E secondo, che McDonald's è una grande azienda che non si occupa soltanto sulla quale si può costruire un percorso di formazione per gli studenti non legato soltanto alla ristorazione. I ragazzi penso che saranno interessati anche al modello di franchising, come si realizza un modello di franchising, ai fornitori e la logistica, alla qualità e la sicurezza alimentare. Io credo che riuscire a costruire dei percorsi positivi con tutte le aziende, non soltanto McDonald's, ma Zara, Accenture, Bosch, Fai, Eni, Coop, Poste Italiane, Intesa San Paolo, il Consiglio Nazionale Forense, credo che sia una grande opportunità per i ragazzi, e credo che non bisogna avere nessun approccio ideologico, ma semplicemente riuscire a costruire le condizioni affinché queste aziende insieme alla scuola possano realizzare processi formativi. Per cui io credo che da questo punto di vista dobbiamo fidarci semplicemente del lavoro che faranno le scuole, che non sono obbligate ad avere rapporto con queste aziende con cui noi abbiamo una convenzione, possono sceglierlo e al tempo stesso possono realizzare i percorsi che reputano più opportuni. Io penso che sia anche, ci debba essere anche senso di realtà, perché secondo questo principio che ha espresso Pantaleo bisognerebbe immediatamente proporre l'estradizione di McDonald's e di tutti i suoi amministratori e dirigenti dall'Italia, visto che è un'azienda che comunque c'è nel nostro paese e in tutto il mondo, è un'azienda che ha dimostrato di saper stare al mercato e lo sa fare anche bene. Allora, prima di ridare la parola a Pantaleo per conoscere le sue osservazioni rispetto alla risposta che gli ha dato il sottosegretario del MIUR Davide Faraone, sentiamo il cosa pensa l'azienda di essersi trovata in questa polemica. Dedola è direttore delle risorse umane di McDonald's, quindi ha a che fare con le scuole eventualmente che in base alla convenzione decideranno di esercitare l'opzione di poter articolare l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro con McDonald's. Allora, Dedola, come la vedete? Esatto, sì, sarò sicuramente io a occuparmi in prima persona, ma dico di più, sono io che ho seguito con il Ministero dell'Istruzione tutto l'iter per arrivare a questo accordo, a questo protocollo d'intesa da cui poi è nata questa polemica. Allora, per darvi un'idea, i rapporti con il Ministero sono iniziati già all'inizio dell'anno, quindi sono alcuni mesi che abbiamo lavorato con il Ministero, che è stato giustamente esigente per capire qual era il percorso che costruivamo per gli studenti che venivano a effettuare esperienze di alternanza con noi. Questo percorso è già stato in breve presentato dal sottosegretario, quindi parleremo della nostra azienda, ma parleremo in realtà di aspetti aziendali che riguardano gli studenti, perché sono generali come le filiere logistiche, la qualità dei prodotti, della sicurezza dei prodotti alimentari, il lavoro, come si sviluppa il lavoro in un ristorante, come produciamo, diciamo, i nostri panini e via discorrendo. L'obiettivo poi è quello di coinvolgere i ragazzi soprattutto in attività di accoglienza e servizio alla clientela. Noi stiamo come azienda affrontando un grande cambiamento che ha una nuova attenzione molto più spinta verso il cliente, per cui questi ragazzi potranno essere accolti nella fase di presa dell'ordine da parte del cliente, con strumenti digitali, supporto alla clientela nella consumazione e anche nella gestione, per esempio, delle feste di compleanno, che per noi sono un'opportunità di business molto favorevole. Quindi questi ragazzi in realtà quello che faranno, svilupperanno le cosiddette competenze trasversali, come per esempio la capacità di relazione, piuttosto che il problem solving, lavorare in team. Sono competenze che servono per qualsiasi tipo di lavoro si vada a fare, quindi che uno faccia il medico o che faccia il pompiere o che venga a lavorare da noi, siamo sicuri che queste competenze, il cui percorso è stato definito insieme con il Ministero, possano essere utili per il futuro. Se posso replicare un po', Stefano Dedola forse non può dire tutto, ma invece mi tocca. McDonald's è una delle più grandi multinazionali al mondo rispetto per esempio alla Corporate University che è una delle più esclusive, ricordo che ha un tasso di ammissione dell'1%, neanche Harvard arriva a quei livelli, e normalmente finisce siamo i primi 20-25 best place to work. Vedo che la Harvard Business Review in Italia fa tirare la mazzuccato, succede. Tutto si tiene, caro Carlo Alberto, chiuso. E devo dire che invece io spingerei assolutamente i miei cugini, parenti, figli a studiare da McDonald's, perché sono una scuola di processi, di relazione, tecnologie digitali e ingaggi di servizio che può servire a tutti, al mondo alberghiero, al mondo delle banche, al mondo delle assicurazioni. È veramente una scuola di vita McDonald's, al di là del fatto che per esempio uno ci possa mangiare una bella insalatina scondita con il pollo grigliato, che è quello per esempio che mangio io, no? E quindi invito l'ottimo Pantaleo a darsi una rinfrescata dal punto di vista alimentare, per esempio studiare il fatto che McDonald's è eccellenza mondiale sulla tracciabilità, che è un altro tema, per esempio la nostra filiera AgriFood importante. Se c'è un posto trasversale dove si possono imparare veramente le competenze pratiche per il made in Italy, per la nostra economia. Io devo dire invece proprio McDonald's, assolutamente, e invito tutti a rivedere i propri pregiudizi. McDonald's è un great place to work, secondo... Allora, abbiamo avuto tre ordini diversi di bordate a mio pantaleo, mi sembra il minimo ridargli la parola per consentire di respingerle, vedrà lui come se eccetera. Allora, pantaleo. Non cambi idea, anche perché non è stata riproposta, non è stata risposta ad un quesito che ho posto. Quale? Qual è la coerenza di tutto questo rispetto ad un liceo, ad un istituto professionale che ha sostanzialmente indirizzi certamente trasversali, ma che ha bisogno sostanzialmente di iniettare all'interno del proprio ciclo di istruzione forti dosi di innovazione. In secondo luogo, ma quali sono le garanzie di diritti per questi ragazzi che vengono messi in alternanza? Sull'alternanza, ad esempio, c'è un tentativo, a mio avviso, di non affrontare un tema. Gli studenti che vanno in alternanza devono avere anche essi dei diritti. Non si può confondere l'alternanza con il fatto che a un certo punto io smetto di studiare e vado magari a prestare un po' di a titolo gratuito un po' di lavoro. Cioè bisogna sostanzialmente fare di questa alternanza, come ho detto, e questo riguarda anche i soggetti con i quali fai le convenzioni, è un'effettiva sperimentazione e un'effettiva esperienza. Però un processo che deve garantire ai ragazzi di avere una formazione, un'educazione all'altezza. Faccia capire anche a chi a casa. Poi, non lo voglio interrompere, sentito, voglio semplicemente. Scusi, no, aspetti dalle cose che ho sentito. Aspetti un secondo, perché sono questioni, perché ho ascoltato che poi questi ragazzi a McDonald's, ad esempio, ma questo riguarderà anche un pezzo della grande distribuzione, andranno a fare, diciamo così, esperienze che sono tipicamente lavorative in un posto in cui poi bisognerebbe anche ragionare di quali sono le tipologie contrattuali presenti. Però aspetti, Pantaleo, se no non ci capiamo e non capisce chi è a casa, perché chi la sente parlare, parlando di diritti, ha l'idea che la transa scuola lavoro sia prestazione di manodopera gratis. Perché lei questo sta facendo. Allora, questo, perdoni un secondo, lo dico, il mio compito come conduttore, no, non è evitare che accada questo. Il mio compito come conduttore è che l'alternanza scuola lavoro entra nella riforma buona scuola, perché l'idea è che c'è un mismatch, un gap terrificante tra l'elevatissimo numero mondiale che abbiamo di net, cioè di giovani che non cercano lavoro e non stanno a scuola, perché c'è sperimentato, lo sappiamo dall'evidenza empirica dei numeri, che c'è un'enorme distanza tra ciò che la formazione oggi, per come è costruita la scuola, il ciclo secondario, terziario e post-terziario, e ciò che, sia pur in una crisi bestiale, l'economia italiana ha effettivamente bisogno. E quindi questa cosa nasce con l'idea di immettere già nel ciclo della secondaria esperienze che servano A, intanto all'orientamento, e B, alla conoscenza diretta di come funzionano settori, imprese, eccetera, eccetera. Questo è l'alternanza scuola-lavoro. Quindi, quando lei dice la coerenza rispetto agli insegnamenti, eccetera, ma però questa era la cosa condivisa da tutti in Italia, non è che il governo l'ha imposta. Ma non mi pare che si va in quella direzione. Ecco, lei dice non si va in questa direzione. Lei dice non si va in questa direzione. Se guardiamo i dati, i fatti, non mi pare che si vada in quella direzione. Faraone, che dice? Ma infatti, da quello che dice Pantaleo, mi sembra che la sua non sia una contrarietà nei confronti di McDonald's, è proprio una contrarietà nei confronti dello strumento alternanza scuola-lavoro. No. Perché è tanto è vero che avete anche raccolto le firme per il referendum e per abrogare questo tipo di esperienza per i ragazzi da fare a scuola. Per fortuna non avete raggiunto il numero. Ma noi crediamo invece tantissimo nell'alternanza scuola-lavoro come strumento di formazione, di didattica, che non deve per forza sfociare su un rapporto di lavoro, può sfociare in un rapporto di lavoro, ma sicuramente è un'esperienza quella che deve essere fatta dagli studenti, di riuscire a costruire nelle aziende o anche in musei, in siti culturali, certo, la possibilità di sperimentare già nel momento stesso in cui si fa questa esperienza qui quello che accadrà quando andranno nel luogo di lavoro. Tra l'altro, l'alternanza Tra l'altro l'alternanza sul lavoro nei paesi dove si è praticata da tanti anni ha dimostrato che può diventare anche uno strumento di abbattimento dei tassi di disoccupazione nel paese. Infatti, negarsi questa possibilità è veramente da stupidi. Però c'è un'obiezione radicale, mi pare di capire, sulla modalità. Pantaleo la interrompeva per dire no, noi non siamo contrari allo strumento ma su come viene esercitato. Ho colto, Pantaleo? Peraltro è stato uno strumento che abbiamo anche noi proposto da tempo, e l'alternanza si faceva anche prima della 107. Sì, è vero, è vero, quindi è vero, non è, vero. È che è stata inventata la 107. Sì, e per noi quello rappresenta un modello didattico estremamente va positivo. Bene, però si comunque di tutte le modalità, io però, comunque ho considerato molto, abbiamo dato in 15 minuti ai nostri ascoltatori l'idea che, come si vede in Italia, a volte si è d'accordo sulle formule ma come si fanno, caro Alberto, il dissenso resta radicale. Peccato, perché queste grandi organizzazioni invece sono scuola straordinaria di metodo, esatto, di processo, di tecnologie. Io invito Pantaleo invece a farsi un'analisi su quello che c'è dietro al front-end di un'azienda come McDonald's. Ripeto, è scuola di lavoro come tante altre, invece questa iniziativa va assolutamente supportata, certo con attenzione a trasformarla non in un passatempo, ma in un modello d'apprendimento. Se c'è un posto al mondo dove il metodo di misurazione dell'apprendimento è funzionale, è proprio McDonald's. Questo è vero, perché questo è un problema. Le metriche in Italia sono un problema sia nel mondo privato che pubblico, e scuola siamo enormemente deficitari, ed è questo che spiega anche perché noi da 20 anni abbiamo la produttività flat, perché questo è figlio di un certo modo, e non c'entra niente con gli hamburger, con i processi organizzativi. Comunque, grazie a Faraone, grazie a Pantaleo, grazie a Dedola, noi ci torniamo tra un... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. E lo so che mancano poche ore alla fine dell'anno e a un giusto brindisi per l'anno prossimo, però guardate che questo è un paese non per giovani. E allora, siccome i dati di reddito della prestazione al mercato del lavoro e previdenziali lo attestano, visto che questa legge di bilancio ha scommesso altri 4 miliardi sul prepensionamento di chi un lavoro ce l'ha invece di pensare a chi un lavoro non ce l'ha, abbiamo approfittato del rapporto Censis annuale per parlare appunto col direttore generale del Censis di questo tema. Ma che paese è? Un paese in cui i vecchi diventano rientrati e i giovani non hanno futuro? Non vogliamo essere troppo pessimisti, ma insomma l'ultimo quarto d'ora è su questo. Con noi il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Allora, i vecchi rentieri e i giovani esclusi, dal punto di vista del Censis, in realtà il bilancio effettivo delle misure assunte in questi anni l'ha aggravato a questo squilibrio, e come mai? Ma io dico subito una cosa, si parla sempre del declino demografico, no? L'anno scorso abbiamo avuto meno di 500.000 bambini, non erano mai stati così pochi i figli nati in Italia dal 1861 dall'Unità d'Italia. Io dico che questo però non è un fatto nuovo di oggi, è un fatto che è un declino che viene ormai da decenni. Il risultato qual è stato? Che il numero dei giovani oggi in Italia è basso. Il fatto che oggi in Italia ci siano pochi giovani come effetto del declino demografico che è cominciato con gli anni Ottanta significa che hanno una scarsa incidenza politica, che hanno una scarsa capacità di rappresentanza. Questo significa quindi che molte misure che vengono prese siano meno orientate a favorire la condizione dei giovani. Perché quello che colpisce non è soltanto il fatto che le famiglie dei giovani con meno di 35 anni oggi abbiano un reddito o una ricchezza più bassa della media. Colpisce il fatto che hanno un reddito, una ricchezza più bassa dei loro coetanei di 25 anni fa. Questo, cioè i millennials di oggi hanno un reddito che si è ridotto del 26% rispetto ai loro coetanei dei primi anni 90. E mentre al contrario, questo gioco, come dire, intertemporale di trasferimento di risorse, è cresciuta la ricchezza delle persone più avanti con l'età degli over 65. Una spiegazione è quella che le dicevo, cioè il fatto che si è sottigliata notevolmente, le coorti di giovani sono diventate veramente esigue in questo paese, significa che hanno una scarsa incidenza politica. E non è vero che questo è un fatto che riguarda tutti i paesi occidentali, perché ad esempio in paesi come la Francia, il numero dei giovani con meno di 35 anni, l'incidenza percentuale sul totale della popolazione non è così basso. Allora ci sono due temi, quello delle misure

che tipo di categoria interpretativa possiamo dare? Che tipo di categoria interpretativa sul lato economico possiamo dare a questo servizio? Oppure, se io faccio uno scambio di appartamento per le vacanze utilizzando una piattaforma web, ho generato un valore perché io posso permettermi di andare in vacanza a Parigi senza spendere soldi per andare in albergo, quindi ho sicuramente generato un valore. Allora, quello che voglio dire è che c'è un contesto molto più sfumato, molto più diverso, nuovo rispetto al passato, rispetto al quale dobbiamo trovare delle nuove categorie, ecco, interpretative, anche per quantificarlo, non c'è perché dubbio, è molto più sfuggente. Non c'è dubbio, però voglio dire, si tratta di due casi che sono classici, perché su cui si misura che cos'è l'economia digitale, che è quella che fa aumentare in realtà il PPP, cioè parità potere d'acquisto, e quindi certo, moltiplicano i redditi, non so se è chiaro, i redditi perché, reali, anche perché li senza avvalorano quelli nominali, come capacità, cioè, di acquisto, esattamente questo, cioè, voi siete grandi artigiani e poi diventati, insomma, una grande impresa industriale dal punto di vista dell'impatto dell'immaginario pubblico italiano. Io questa è la prima volta dopo tanti anni in cui non mi trovo proprio radicalmente d'accordo. Comunque, grazie, e finiamo quest'anno in maniera un po' problematica come 2016 italiano, speriamo in un 2017 migliore, ma ricordatevi di una cosa: solo se non vi farete fottere dalle promesse dello Stato, questo siamo espliciti e coerenti con il nostro spirito, il 2017 vostro sarà per tutti davvero migliore. Crediamo in noi stessi prima di credere alle troppe bubole che ci vengono dall'alto. Buon anno! Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, le tempi.